Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Voci dai segreti delle cosche, voci dell'ultimo capo dei capi arrestato. Ecco le parole della più potente e fino ad ora più sconosciuta malavita italiana. Ecco il volto dell''ndrangheta così come i suoi stessi uomini l'hanno raccontata. Una federazione di clan e famiglie con tre mandamenti, ma un'unica struttura organizzativa, la provincia, un nome con suggestioni da impero romano. È stato come quando Tommaso Buscetta consegnò i segreti della cupola a Giovanni Falcone. Con queste parole il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso definisce la svolta segnata dalla maxi retata sull'asse Milano-Reggio Calabria. 304 arresti e una mappa appena aggiornata delle colonie dell''ndrangheta. Ora dunque lo Stato penetra un po' in più negli anfratti dell'Aspromonte, ma succederà anche in Calabria, come avvenne dopo la collaborazione di Buscetta in Sicilia. Alle due sponde guarda Michele Prestipino, ora procuratore aggiunto a Reggio Calabria, dopo essere stato tra quanti a Palermo ha lavorato alla cattura, tra gli altri, di Bernardo Provenzano. Nel caso di Buscetta era il frutto della decisione di un uomo importante all'interno di Cosa Nostra, che aveva deciso di abbandonare la propria posizione, il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e di consegnare i propri segreti allo Stato, ai suoi apparati e quindi ad un magistrato come Giovanni Falcone allora. Qui siamo in presenza di una realtà diversa, qui non c'è nessuno che ha deciso di consegnare i propri segreti allo Stato, qui c'è lo Stato che attraverso delle attività investigative è riuscito per una volta a carpire i segreti ai mafiosi. Questi segreti sono stati carpiti nei momenti cruciali della vita dell'organizzazione, della sua presenza sul territorio nazionale. Questa è una differenza importante. L'altra differenza è costituita dal fatto che qui siamo in presenza di tante voci di mafiosi, non una soltanto, che ci raccontano storie diverse, che ci raccontano però una sola verità dal punto di vista della struttura e del modello organizzativo, una verità che fino adesso era rimasta in ombra. Questo volto dell''ndrangheta che avete ricostruito in questa inchiesta come si mostra? È stato detto appunto non più una struttura orizzontale, non più una struttura fatta esclusivamente per nuclei familiari, ma organizzata anche all'interno di una sorta di organigramma piramidale ben preciso, con al vertice, sia pur temporaneamente, una persona. Ecco, ci faccia capire che cosa vuol dire per una organizzazione malavitosa avere una persona al suo vertice, che tipo di logiche sottende questa scelta? L'idea che un'organizzazione mafiosa come l''ndrangheta potesse avere una struttura verticistica, ovviamente poi con tutte le flessibilità del caso, è un'idea che non è affatto nuova, è un'idea che era stata già prospettata da alcuni analisti negli anni passati, che di fronte ad alcuni eventi, che di fronte all'accumulazione di potere, alla forza espansiva dell''ndrangheta, si era posta la domanda, insomma, ma com'è possibile che un'organizzazione così forte non abbia una direzione, non abbia una strategia unitaria? La novità è che oggi a questa domanda la risposta la forniscono gli stessi mafiosi, con le loro parole, con le loro interlocuzioni, con i loro momenti d'incontro e con quello che durante questi incontri i mafiosi si sono detti. La risposta è quella di un'organizzazione che mantiene ovviamente ben salda la sua struttura di base, che è una struttura fondamentalmente di tipo familistico, perché le varie famiglie hanno, oltre che un legame associativo tra di loro, hanno un legame molto spesso di tipo parentale. Su questa struttura familistica politica ovviamente ci sono dei momenti e ci sono degli organi di raccordo, di coordinamento, di direzione e di elaborazione di una strategia che vale per tutti. E come in tutte le organizzazioni che hanno una loro strutturazione unitaria, dove ci sono questi organi di vertice, ci sono anche degli organi di giustizia interna, degli organi che sanzionano i comportamenti devianti. Esistono questi organi di vertice che si chiamano e che chiamano loro come provincia o come alternativamente come crimine, e accanto a questo esiste un organo che deve vigilare sull'applicazione delle regole che l'Andrangheta come organizzazione unitaria si è data e che è un vero e proprio tribunale in grado di giudicare i propri componenti per i comportamenti devianti, per le mancanze. Ci faccia degli esempi sui comportamenti devianti. Agli atti ci sono anche dei casi specifici, appunto, di processi ad affiliati. Sono, diciamo, di solito mancanze che attengono a momenti di raccordo, a momenti di rispetto di decisioni. D'altronde l'esempio più clamoroso, forse più eclatante, è quello che ha portato all'omicidio di uno di questi esponenti apicali. Parliamo ovviamente dell'omicidio di Novella, che viene eliminato per il tentativo di, come dire, rendere del tutto autonoma e indipendente la Lombardia come struttura di 'Ndrangheta dalla casa madre, che è la provincia di Reggio Calabria. Ebbene, proprio in relazione a questa vicenda ci sono delle conversazioni assai significative, dove a un certo punto di questa persona si dice: la provincia lo ha licenziato. E infatti poco dopo Novella verrà ucciso, e verrà ucciso perché appunto la casa madre, la Calabria, vuole riaffermare le sue regole di testa dell'organizzazione rispetto a questa spinta autonomista. Ma perché invece la scelta di Domenico Oppedisano come capo della provincia? Si capisce dalle intercettazioni che tra le varie componenti territoriali, tra le quali si formano via via equilibri sempre rinnovati, sempre diversi, c'era la necessità di riconoscere in questo momento la forza di una di queste componenti, di in passato quella che gli stessi 'ndranghetisti chiamano la mamma, per indicare il centro, diciamo, del potere mafioso, era situato nell'ambito di un altro mandamento, che era quello ionico. Questa volta il mandamento tirrenico, diciamo, ha preteso un riconoscimento che è stato concesso. Ma partiamo da lui, partiamo dal capocrimine, il nuovo numero uno dell''Ndrangheta, Domenico Oppedisano, ottantenne, arrestato nel Blitz. A questo punto, in un altro matrimonio o a settembre, nel santuario della Madonna di Polsi, sarà scelto il suo sostituto? Questo credo che sia inevitabile. Un'organizzazione tipo mafiosa che ha radici lontane nel tempo e che ha ovviamente delle strutture stabilizzate non soltanto all'interno della Calabria come l''Ndrangheta, ma anche fuori della regione Calabra, ovviamente ha le energie e le risorse per affrontare anche un momento di crisi come può essere questo per la sua stessa sussistenza. Però bisogna anche saper riconoscere che le risorse che anche un'organizzazione potente come l''Ndrangheta al suo interno non sono risorse infinite, soprattutto dal punto di vista della qualità. Un Riina, un Provenzano non sono stati nel tempo facilmente sostituiti, e questa cosa penso che valga anche in Calabria per l''Ndrangheta. Per questo è importante l'azione di contrasto, perché assestando colpi importanti alle strutture organizzative dell''Ndrangheta si determina un abbassamento del livello qualitativo dell'organizzazione e mano a mano ha verso l'esterno una minore capacità attrattiva. Secondo lei questo colpo pesante all''Ndrangheta potrebbe favorire la presenza, il venir fuori di qualche pentito? Lo sappiamo che l''Ndrangheta è quasi priva di pentiti proprio per quei legami di sangue, ma a questo punto un colpo che forse è il primo vero colpo forte all''Ndrangheta potrebbe portare anche qualcuno, casomai anche le leve più giovani, a tentennare e a pentirsi? Questo ovviamente noi ce lo auguriamo, anche se questo è un discorso molto complesso e anche delicato. La mancanza di collaborazioni è frutto di una molteplicità di fattori. Uno di questi fattori è senz'altro la struttura che lega gli associati tra di loro, ma questo c'era anche in Sicilia. Credo che un passo in avanti si potrà fare quando lo Stato nel suo complesso si presenterà più unito, più affidabile, più credibile. Colpisce nell'approfondire gli aspetti di questo maxi blitz il meccanismo di colonizzazione, si è detto, che l'Ndrangheta aveva messo in atto in altre zone d'Italia e all'estero, ma soprattutto in Lombardia. Un meccanismo di colonizzazione che passa attraverso anche la presenza di talpe che spifferano le notizie sulle inchieste a Milano, così come a Reggio Calabria. Non è particolarmente preoccupante questo? Questo è molto preoccupante, ma è uno degli aspetti che rendono forti le organizzazioni mafiose. Le organizzazioni mafiose sono tali perché hanno la capacità di instaurare relazioni col mondo esterno e tra questi mondi uno di quelli più strategici per le organizzazioni mafiose sono proprio le istituzioni che tutte le organizzazioni mafiose cercano di infiltrare o di comprare attraverso il potere della corruzione. L'infiltrazione nelle istituzioni e soprattutto in quelle negli apparati repressivi servono per acquisire le informazioni utili ad evitare le conseguenze delle attività investigative. In Sicilia le catture dei più importanti latitanti sono riuscite quando si sono attenuati i flussi comunicativi di notizie riservate dagli apparati dello Stato verso la mafia. Ogni volta che si è inciso su questi flussi si sono raggiunti risultati. Credo che in questo la Calabria non sia diversa dalla Sicilia. E secondo lei è questa anche la ragione per cui negli ultimi anni poco è stato fatto contro l'Ndrangheta? Una delle ragioni è questa che lei diceva, la presenza di infiltrazioni anche negli apparati stessi dello Stato? Io posso registrare quello che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che c'è una forte compattezza tra i diversi comparti istituzionali. È una compattezza che è una condizione importante per la riuscita dell'azione di contrasto. Questa indagine che abbiamo concluso è la riprova, perché uno degli aspetti più importanti, più significativi, è stato quello della collaborazione tra le diverse forze di polizia e del coordinamento tra due diverse direzioni distrettuali antimafia. È una condizione fondamentale. Non si può contrastare efficacemente l'Ndrangheta se non si colpisce nel cuore del suo potere mafioso, dove l'Ndrangheta accumula il suo potere, e cioè la provincia di Reggio Calabria, e contemporaneamente e contestualmente laddove le sue cellule criminali clonate sono presenti e investono le enormi ricchezze di cui questa organizzazione mafiosa dispone. Una compattezza che, mi sembra di capire dalle sue parole, negli anni passati era mancata. Ma io negli anni passati lavoravo in Sicilia. E quindi non si vuole pronunciare rispetto alla situazione che pur immagino abbia imparato a conoscere della Calabria. Dottor Prestipino, in questa clonazione dell'Ndrangheta c'è ovviamente anche tutta la dinamica degli affari e degli interessi delle famiglie e dei clan. Un'intercettazione, ad esempio, parla tanto del Ponte di Messina quanto dell'Esposo. Avete raccolto elementi concreti? Senza proiettarsi troppo verso le opere future, basti pensare a quelle che sono in corso di realizzazione nel paese in questo momento. Noi abbiamo fatto diverse indagini sulle infiltrazioni mafiose nei lavori di riammodernamento l'internamento della Salerno-Reggio Calabria e abbiamo potuto constatare che c'era in atto un sistema di controllo, di acquisizione dei lavori di movimento terra, dei lavori a più bassa tecnologia da parte delle imprese che realizzavano interessi delle famiglie mafiose. Qui si parla di controllo delle assunzioni, delle forniture. Ma a questi non mi stupisce quindi che ci siano intercettazioni dove i mafiosi manifestino il proprio intendimento di proiettarsi verso lavori ancora più importanti e più remunerativi. In questa inchiesta quanto forte era la presenza di questi gruppi massonici tra le persone che avete arrestato? Beh, indubbiamente le indagini che abbiamo condotto hanno evidenziato una significativa presenza, che è lo stesso tipo di presenza che abbiamo registrato anche in altri contesti investigativi più prettamente calabresi. È una presenza che si sente di più mano a mano che ovviamente le indagini si spingono verso il mondo degli affari e gli intrecci tra gli affari che curano le imprese vicino all'Ndrangheta e le pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che potrete riascoltare questa intervista come tutte le altre storiacce sul sito radio24.it. Troverete diverse puntate dedicate alla Calabria, all'Ndrangheta e anche alle sue colonie lombarde. E a partire dalla pagina di storiacce sul sito di Radio 24 potrete entrare anche nel nostro nuovo blog www.radio24.ilsole24ore.com/blog/calandra. Scrivetemi, ne parleremo insieme.